All'amore, l'amore, quante cose ti fa fare l'amore. All'amore, l'amore, quante parole ti fa dire l'amore. Quanta vita, quante ore regalate all'amore. Quante frasi dette al vento dedicate all'amore. All'amore, l'amore, quanti sogni ti brucia l'amore. All'amore, l'amore, quante notti non ti lascia dormire. E ti senti più grande del mare. E ti senti ancor meno di niente. Poi un giorno t'accorgi che è finito il tempo dell'amore. Giuri che ormai sei rimasto deluso, che non crederai più all'amore. Poi una sera uno sguardo ti dice qualcosa e sei fuori del mondo. Lasci sognare e ti trovi a inventare poesie, a sognare le valli lontane dove il sole raggiunge la luna e le parla d'amore. Solo.